In tutti questi anni ho eluso le certezze, cibandomi soltanto di gioie e di amarezze. E tutti i tentativi di aprire nuove porte sono stati positivi anche se non si sono aperte. Lo so che non è facile uscirne con coraggio. In fondo resto fragile in questo mio viaggio, che affronto a testa alta, che affronto un po' di fuori, sapendo che mi aspettano chilometri e dolori. E attingo a mani basse e con le orecchie tese, pagando le mie tasse e le mie spese. Eppure certe notti aspetto rannicchiata che il carro presto trotti e arrivi la giornata. Ma io continuo a esistere e tu non puoi negarmi di avermi visto piangere e aiutato ad asciugarmi. Ti addormenti.